occhietti superstiti, le mani quasi giunte su un arbusto mai visto, sedeva accovacciato sulla terra. Imparerete a amarla in pace in guerra. Imparerete a amarla in pace in guerra. Imparerete a amarla in pace in guerra. Grigie pietre, le case inutilmente fortificate. Fessure, i volti bruni di sole, sole, tra tessuti sgargianti di colore. È vostra questa pianta, dono del creatore, a lui salga la lode, voi che pagate, crudele salvatore. Crudele salvatore. E gli occhi suoi già stanchi prendevano commiato, vedendo con lo sguardo le mille meraviglie del creato. Le mille meraviglie del creato. In alto trasparente denso il cielo, immobile vicino, in basso umide nuvole, rumore di foresta lontano, lontano, lontano. Renderà sopportate fame, fatica, orrore, le vostre sofferenze allevierà. Amate creature, vi terrà compagnia quando sarete soli di necessità. Per ultimo non ultimo li polverizzerà. Per ultimo non ultimo li polverizzerà. Per ultimo non ultimo li polverizzerà. Li polverizzerà. Li polverizzerà. Qualche parola stanca, un prete, un dono, una divinazione, qualcuno senza merito ne canta la canzone, qualcuno senza merito ne canta la canzone, ne canta la canzone, ne canta la canzone. C'è qualcosa da capire, non si sa mai, non si sa mai. C'è qualcosa da capire, per quanto senso sia, difficile da dire, difficile da dire. Per quanto senso sia, c'è qualcosa da capire, non si sa mai. Impotente difesa, masticata preghiera, rende sopportate fame, fatica, orrore, le sofferenze allevia, amate creature, tiene al caldo chi è solo di necessità. Per ultimo non ultimo li polverizzerà. Per ultimo non ultimo li polverizzerà. Per ultimo non ultimo li polverizzerà. Li polverizzerà. Li polverizzerà. Non si sa mai, c'è qualcosa da capire. Per quanto senso sia, difficile da dire. Difficile da dire. Per quanto senso sia, c'è qualcosa da capire. Non si sa mai, non si sa mai, c'è qualcosa da capire. Per quanto senso sia, difficile da dire, difficile. via, c'è qualcosa da capire, non si sa mai, impotente difesa, masticata preghiera, rende sopportate, frane, fatica, orrore, le sofferenze allevia, amate creature, tieni al caldo chi sono, di necessità, per ultimo non ultimo ripolverizzerà, per ultimo non ultimo ripolverizzerà, per ultimo non ultimo ripolverizzerà, per ultimo non ultimo ripolverizzerà, ripolverizzerà, ripolverizzerà, ripolverizzerà, ripolverizzerà, ripolverizzerà.